andato via. Ho pianto, pianto di dolore. Oggi che ritorni mio, mi chiedi se io t'amo ancora. È troppo tardi ormai, è troppo tardi. Oggi vorresti ancora tornare come allora, ma i giuramenti tuoi falsi e bugiardi dicono al cuore tu sei sempre tu. Inutilmente cerchi ancora di mentire, come puoi dire son tornato perché non ho che te. Leggo negli occhi tuoi quando mi guardi, tutto è finito ormai, è troppo tardi. Ormai